notte nascondo, forse per questo che mi sento solo. Accadrà anche il niente, ed io tra poco avrò paura di te. Quante altre notti ho passato a guardarmi in riflesso nel buio, pieno di frasi e passioni che ho cancellato nei miei cosa accadrà quando avrò gli occhi stanchi di pianto e non vedrò la mano che ora mi tiene. Ci sarà un altro buio che saprà riportarmi la voce ed avrò un'altra storia dove tornare. Se è giusto dare un uomo solo ai suoi nemici, se verrà finalmente la salvezza che aspetto o no, sarà la mia fine, ma non